La necessità parte da una valutazione di ciò che stava accadendo negli ultimi anni, cioè una degenerazione di svastiche, di saluti romani, di vendita di calendari, tutte cose che ricordano due ideologie criminali come il fascismo e il nazismo. E questi oltraggi abbiamo notato negli ultimi anni che venivano fatti anche in realtà fortemente colpiti da queste ideologie, come Sant'Anna di Stazzema, per esempio Marzabotto, dove mi ricordo il ragazzo che fece il saluto romano dopo aver segnato un gol proprio nel campo di Marzabotto. Sono avuti episodi simili, svastiche a Sant'Anna di Stazzema. Ecco, questo indigna soprattutto un amministratore locale di queste realtà, ma questi atteggiamenti riaprono le ferite nei superstiti di chi ha subito questi crimini contro l'umanità nei confronti dei loro familiari. E poi un'indagine dell'Istituto Eurispes che ha messo in evidenza dei numeri, che sui numeri poi dopo non ci sono equivoci, che allarmano. Nel 2004 chi pensava che la Shoah non fosse mai avvenuta era il 2,7%, oggi nel 2020 il 15,6%. Poi sentiamo rappresentanti istituzionali addirittura che dicono che il leader del partito fascista ha fatto anche cose buone. Ecco, io credo che non si può rimanere indifferenti da questi atteggiamenti, e quindi da lì la volontà di predisporre una legge che parte dal basso, quindi la scelta dell'iniziativa popolare, dove condanni, dove si predisponga una norma contro proprio la propaganda, la diffusione dei messaggi che inneggiano al fascismo e al nazismo, ma che venga anche vietata la vendita e la produzione di oggetti di questi simboli, di queste due ideologie criminali. Questo è un po' in estrema sintesi quello che vorremmo fare, e soprattutto in rispetto di chi attraverso la resistenza ci ha regalato la libertà e la democrazia, e anche delle nuove generazioni che non devono crescere con una storia letta in maniera sbagliata, ma letta nella maniera giusta. Quindi bisogna raccontare loro che queste ideologie e questi simboli non possono essere maneggiati come un qualcosa di divertente, che a volte si archiviano, no? Queste cose, se fatte da un ragazzo, si dice è una ragazzata. No. Qui bisogna metterci tutti in discussione, perché se un ragazzo fa queste cose vuol dire che non è stato adeguatamente formato, quindi forse serve questa legge, ma serve anche un percorso all'interno della vita formativa dei giovani dentro le scuole che gli faccia conoscere e approfondire bene quel paragrafo brutto della storia del nostro paese, che forse è più brutto della storia del nostro paese che sia mai esistito. Certo, ecco, mi concentro un secondo sulla seconda parte, diciamo così, della legge, quella sulla gadgettistica, appunto sugli oggetti con simboli fascisti e nazisti, perché insomma la vendita di queste cose ha anche un effetto di normalizzazione di questi simboli. Sì, ma infatti sta passando questo messaggio, sta passando il messaggio più negativo che possa mai passare. Io credo che questo messaggio si sconfigge con due aspetti. Un aspetto è quello culturale, e quindi formare le persone perché non accettino la violenza come strumento di giustizia, perché il fascismo utilizzava la violenza come strumento di giustizia. E l'altro aspetto è quello di valorizzare la memoria, quindi consegnare alle giovani generazioni una memoria storica vera, perché ciò che è accaduto, gli orrori del passato, non si ripresentino anche nel futuro. Quindi non bisogna abbassare la guardia, perché la democrazia ce l'abbiamo, ma bisogna investire in democrazia quotidianamente per non perderla. Certo, ecco, le leggi di iniziativa popolare devono raccogliere 50.000 firme, si potrà firmare presso i propri comuni entro fine marzo. Ha dati, ha una percezione di come sta andando la raccolta? La raccolta sta andando molto bene, quindi c'è ampia soddisfazione, ma fino al 31 marzo dobbiamo impegnarci tutti, perché questa non è l'istanza, la legge di tutti coloro che firmano, e le firme devono essere moltissime, perché alla fine i numeri contano. Se portiamo una proposta sostenuta da migliaia, centinaia di migliaia di cittadini, non da appena 50.000, io credo che il Parlamento non possa fare come ha fatto nei decenni passati per la strage di Sant'Anna di Stazzema, lasciare i fascicoli inevasi. In questo caso questa proposta di legge dovrà avviare l'iter parlamentare, e io mi auguro che si concluda con un'approvazione, che da proposta diventi legge.